Benissimo, ma tu le misure che devi fare, me le puoi passare, me le puoi fare avere? No, per le misure sono andato dall'amico mio, dai, già lo sai, mica gli posso fare la porca da Giuseppe, perché ho detto se io so il prezzo vado lì e me lo faccio fare da loro, anche per tagliarmelo a pizzi, dai, mica posso fare lavorare a voi così. Cioè, io era solamente una cortesia per sapere i prezzi e per valutare la situazione. Io le misure le ho fatte prendere a loro e niente, a me mi servono i prezzi e basta, dai, che poi abbiamo girato per il ritirato perché mi ha detto che è quello che costa di meno di tutti. E anche se lo dovessero spaccare i bambini per dispetto, non viene giù. Senta, no, io il prezzo l'ho fatto fare per l'altro, Mario, e se ti facevano un prezzo dai 25 ai 27 al metro quadro, andavi bene. Ah, 25 o 27 al metro quadro, quello anche sfondamento, e allora quello ritirato costa molto meno. Sapere cosa costa quello originato, perché così io quando mi fa il prezzo, perché sai com'è, gli amici sono amici, però quando mi sono in parte di me, siccome ci viene giù un bel pochi, allora bisogna cercare di risparmiare il più possibile. Cappa di positivo, dai, domani vedo di fartelo sapere, Mario, senza mancare. Ok, dai, facciamo girare, avanti, avanti, avanti, avanti, riprendi tu bulldozer, dai. Era positivo, positivo. Non era bulldozer, era cognato di bulldozer. Se non sbaglio c'era anche doppio room, orientando verso Sassari. Avanti, doppio room. Tanto fa il grido, ha salutato. È scomparso, lui, sbaglio che non risponde nessuno, ma Mario, tu non lo senti a Massimiliano parlare? No, qua no, non sono nella mia postazione. L'hai cazzicato tre volte. E anch'io sono nella mia postazione. Ui, fa che? Ui, Giuseppe. Avanti, Massimiliano. Mario non ti sente e ti ha calpestato. Io lo sento, a me ne aveva Santiago 5-6 qua. Io lo sento, capito, non ce n'è problema. Vabbè, pazienza, se lui non mi sente, non so che dire, magari problema di antenna, non lo so. Ok, dai, lanciamo il avvio che fa un po' chiude. Davide. Massimiliano, io ti dico, ma senti, e sto arrivando. Un saluto a tutti quanti, quelli che mi hanno ascoltato. E ci sentiamo domani. Ciao, ciao, via, via. Abbasso un po' l'eco, Gabriele. Ciao, ciao, buon proseguo di serata e buon tutto, dai. Riprendi. Dovevo salutare anche l'amico Falchetto che è entrato. Ciao, Falchè. Ciao Marito, ben entrato, ben tutto. Ciao Gabi, ci sentiamo alle prossime, dai, quando coincide noi siamo sempre qua. Ciao e buona serata. Avanti Falchetto. Falchetto. Infatti ho rilanciato Falchetto ma non parte. Falchetto ogni tanto scarrella di canale, capito? E sicuramente è andato a farsi un goccio di rosso. Cappa di positivo. Cappa di positivo. Mario, l'hai sentito in questo passaggio Massimiliano Bulldozer? chiamato? No, mi arriva in mezzo al QRM, no. Sento che sta dicendo qualcosa, si sente borbottare, però la verità non si capisce nulla. Là c'è il QRM qui che ha le stelle. E tenendo presente che non sono nella mia postazione, qui sono sempre da Antonello. Davvero, può andare nella tua postazione? Attento Mario, Massimiliano dice, lui ti sente comunque, mi ha detto non puoi andare nella tua postazione? In questo momento no, perché insomma sono un po' distante, al limite se entra più tardi che io sono a casa, allora sì. Io gli arrivo a Santiago 7 perché qui Antonello gli ha messo una medicina per cercare di farmi sentire, perché se no non lo sentiva nessuno, è vero, però lui qui non arriva, te lo sento in mezzo al QRM, ma altrimenti gli avrei risposto, anzi me lo saluti, niente, cosa vuoi che ti dica, mi dispiace molto, però purtroppo qui c'è sempre quell'antennina di macchina messa sulla ringhiera, boh. Allora, hai copiato Massimiliano? Sì, sì, tranquillo, io Giuseppe, lo sento perfettamente bene, capito. Santiago sì, a picchi di 7 quando vola, quindi io QRM non ne ho la verità e quindi non. E io lo sento perfettamente bene. Sicuramente magari lui c'ha il QRM molto alto. Andiamo, Falchetto sparito, Mario, Massimiliano Bulldozer ti super cordializza, K di positivo. K, tutto ricambiato al centro Massimiliano, mi dispiace, però tu lo sai, da casa mia ti accompagno fino al lavoro, però qui non riesco a tirarti fuori, arrivo in mezzo al QRM, infatti è quello che io di qua. Dico Antonello, è inutile che ti fai sentire chissà dove e poi non senti quelli che sono sotto casa quasi. Su quello direi che c'è ragione, però potrebbe anche migliorare, anche se c'è una antenna magnetica sulla ringhiera, la può migliorare, questa, metto la calamita, le fa una caffetta attaccata alla ringhiera. Massimiliano dice che nonostante tutto Mario, Antonello potrebbe migliorare e migliorare alla grande, magari dice togliendo la calamita e facendo una staffetta lì a ringhiera. È fatto, c'è una staffa di quelle di parabola, c'è un'altra piastra che fa da piano riflettente un po' e poi sopra al centro c'è l'antenna, però diciamo da qui dall'ambito di Sassari non riesce a uscire, capito? Di positivo, Massimiliano, Mario, proprio due minutini di bianco per me, mi ha chiamato un attimo la bambina. Tu lo sai che non ci sono problemi, vai a pulirti la bambina che è sempre la prima cosa, poi fai come che fossi a casa tua, dai. positivo, cappa di positivo Massimiliano, fai pure con comodo, ci mancherebbe altro, dai, noi tutta più già siamo qui, ci sentiamo presto Massimiliano e buon proseguo di serata. Hai cambiato il centro, Giuseppe, dai, saluta. Ciao Massimiliano, buon proseguo, buon tutto, ce la riascoltiamo più tardi se coincide. Cappa. Cappa Mario, ti saluta Massimiliano, deve fare alcune cosette, quelle sono tal più, e ce la risentiamo a più dopo. Cappa Cappa, dimmi una cosa Giuseppe, ma da dove che mi stava sentendo? Perché io a lui non lo sentivo, sicuramente era verso Pontottone, se non lo so. Ma non lo so, ma io presumo che fosse a casa, e quello non gliel'ho chiesto Mario, presumo fosse a casa Massimiliano. Beh, se era a casa qui a Sassari, noi siamo molto lontano, perché se Falchetto mi ascolta, io ascolto Falchetto, pensavo di ascoltare anche lui, invece lo sentivo mormorare, ma era in mezzo al QRM e non capivo niente. Io non so dove stia Massimiliano, però mi stava arrivando abbastanza bene qui, è bello, pulito e anche abbastanza forte come segnale. Ma guarda, cosa vuoi che ti dica, io qui il QRM ce l'ho quasi a 7. E non la buona, così tanto, no, io qui zero proprio. Non so, guarda, da che cosa dipenda. Adesso non so se dipende dall'apparato o da che cosa sia, però quel QRM è altissimo. Ma PL, tutta quella cosa lì, Mario, è tutto ok? Sì, sì, perché ora tutta quanta controllata Antonello, ha tutto controllato Pomponio, se faceva bene massa, se gli effetti, perché poi ci metteva il test per vedere se c'era continuità o meno, ed era tutto a posto, infatti prima non si sentiva niente, non lo sentiva quasi nessuno, adesso ha migliorato un pochettino, però con la ricezione siamo sempre di sotto, Cappa Mario, lo posso capire, ma è Antonello posto per piazzare antenna, non ne ha? No, momentaneamente non ne ha, no. Bisognerebbe salire sul tetto, però qui ce l'ha un poco contro, non lo vogliono far salire. Se non sono d'accordo tutti, tu lo sai che sul tetto non ti fanno salire. Anche se c'è la legge che dice che tu sul tetto per attaccare l'antenna puoi salire. Cappa di positivo Mario, lo so. Mannaggia. I delinquenti ci sono da tutte le parti, guarda. Niente, ma se avessi trovato a me un attimino lì sarei salito lo stesso io sul tetto. Se vieni col camion tuo può darsi che ce la fai, la gru è molto grande. Beh, la gru tira su sino a 10 metri. Beh, allora non ci arrivo, perché qui mi sembra che sono intorno ai 15 metri, perché allora questa casa qui è fatta in un modo particolare, che quello dell'ultimo piano nella scala non ci hanno fatto botola, perché se c'è un qualcosa uno chiede il permesso, entra e c'è il terrazzino grande e poi dal terrazzino va sul tetto praticamente, cioè sono quattro passi. Però con la scusa che se non sono tutti d'accordo cosa succede? Che quella dell'ultimo piano ci dice no e no, non vuoi giù e tu dentro casa mia non vedi, perché purtroppo devi passare da casa sua, perché botola non ne hanno fatto ma hanno fatto il passaggio dal terrazzo. E allora a quel punto lì lui o chiama a Mesina e si fa portare una gru che arrivi sino lì, gli fa due buchi col tesseratore, gli mette due tasselli di quelli corazzati in acciaio, gli mette gli STO, ci aggancia il paletto con l'antenna e ha fatto, e poi il filo lo fa passare nel muro dei confini che lì non gli possono dire niente, poi sotto il bordo del terrazzo fa la calata sino a casa sua tramite il fluviale. Ehi, K di positivo, quella sarebbe un'ottima idea. Ma se non sono indiscreto, a che piano sta Antonello? Piani bassi, presumo. Antonello sta al secondo piano, ma sopra di lui ce ne sono altri quattro. Ehi, K, mannaggia, è un po' in basso, Ma quello lì non ha importanza. Quello che ha importanza era riuscire in qualche modo, tramite qualche amico che c'ha la gru, che riesca a spartigliare i suoi lunghi. Sì. Allora, 5 per 3, 15, 15 metri deve salire. Una gru che salga almeno 15 metri. Lui va sul terrazzo, praticamente va sul terrazzo. Sul muro di confine c'è la cabina dell'ascensore, gli attacca l'antenna con un tesseratore, butta giù il carro e ha fatto. Ehi, papà, allora ci vorrebbe quel trattore che ha Mesina. Quello lì l'ho visto lavorando a coso, ad Alghero. Hai voglia, 15 metri e gliene avanza pure. Perché stavano sistemando un traliccio di coso, doveva essere qualcosa di telefonia. E quello 15 metri c'era, buono. E la gru non l'ha usata tutta. Mette il cestello e in un attimo sali e scendi. Già lo so, ma è quanto piglia Mesina per venire da Carica, da dove c'è il deposito qua? Mi è morto di imparare un pacco di denaro. Ma non lo so, Mario. Io invece sarei stato del parere e solo chiedere, perché tanto chiedere non si paga. Telefonare, chiedergli, ascolti, per portare una motrice che salga col cestello a tale altezza, la casa si trova in tale zona e si valuta il conto anche un'ora, perché se si fa trovare tutta l'attrezzatura pronta, tasselli e quanto c'è, poi il filo si butta giù e si sistema bene poi nelle coso, nel tubo che raccoglie l'acqua piovana, no? Si può fare il preventivo di un'ora la macchina lì e si sa subito, perché se conviene allora risolto tutti i problemi. Bisogna vedere quanto spara ora, perché io gli posso trovare praticamente lo stilo già piazzato, la base già pronta anche con il radiale, per dire, no? E poi, una volta che sale su, fai due buche con i tassili, attacca il palo, ci attacca l'antenna, poi unisce l'antenna con lo stilo, le controlla la stazionale, a quel punto gli butta giù il cavo e poi scendendo lo cestello stesso passa lungo il fluviale e si mette quelle fascette da elettricista attaccate al fluviale, lo porta fino a casa sua, dopodiché è finito. Io penso che in un'ora di lavorazione si riesca a fare, però minimo te ne fa pagare due, perché il tempo per venire qui, piazzare la macchina, poi rismontarla per portarsela via, è diverso, capito? Ma non credere che ci voglia tanto, mi Mario, perché lui deve solo abbassare gli stabilizzatori, come ce li ho io nel camion. Abbassa gli stabilizzatori, stabilizza la macchina, dopodiché è pronta. Per preparare la macchina, guarda, ci vogliono, esagerando, 5 minuti. Ecco, paga, perché io la Mesina non conosco nessuno. Altrimenti, vabbè, io posso passare sempre in ufficio e chiedere. Certo, Mario, solo così si può sapere se si può fare, perché metti caso che possa fare, visto che qui a Sassari un prezzo ragionevole. Cavolo, Mario, Mario, Antonello si ha tolto tutti i problemi e riesce alla grande. Già lo so, se qui dovesse piazzare una macchina da 5 sul tetto spacca il culo ai passeri, non è che è così, no, anche perché lui è fortunato come me, capito, intorno non c'ha palazzi grandi, capito, e così che lui, essendo già in alto, gli mette un palo da 4 metri e lo tiene pronto ad attaccarsi l'antenna e tutto quanto, per piazzare un'antenna ci vuole, esagerando, guarda, ci mette una ventina di minuti, perché fai due buchi con il tesseratore, li mette il tessero corazzato con l'STO, stringe, mette il palo, è praticamente fatto, poi non deve fare altro che innestargli lo stilo già piazzato, che se lo porta su con la scala stessa aerea, va lì e ha fatto tutto quanto, non è che ci voglia molto, no? Un capo di positivo, Mario, e avendo tutto pronto, una volta che lui che ha tassellato lì il palo, l'antenna se la porta già piazzata di radiali e cavo, addirittura avrei anche attaccato tutto quanto, PL, già vulcanizzato tutto, in maniera che lui, come sa, deve solo infilare il pezzo della manta con il tubo, mette la fascetta e se ne sta subito scendendo. Capa di positivo, è quello che stavo pensando io, cioè prepararsi lo stilo per dire dal giorno prima e lo appoggia sul terrazzo, si prepara lo stilo con tutte le fascette, le cose, e gli mette vulcanizzante col grasso sotto e se lo si gira, il moncone con i radiali se lo prepara già tutto pronto, lo fa altro che quando arriva al cestello lo avvicina al suo terrazzo, mette tutto sopra e tira su, cavo, stilo e antenna, anche il tubo, perché se lo mette sul terrazzo, se lo mette sul cestello, poi una volta che è su, fa un salto, ci mette quei 4 bulloni e ha finito. Infatti è molto più comodo farlo così che stare lì a saltare di terrazzi e di coso. Una volta che fa così, guarda, lui per 20 anni è a posto. Già lo so, però adesso vediamo, dai, quanto costa la scala, poi casomai gli do una mano io, sia per l'antenna che per le cose, vediamo un poco. Però bisogna vedere questa domanda mesina. Va bene, detto questo, vediamo se è rientrato Falchetto e così non monopolizziamo la frequenza. Cappa di positivo, Mario. Falchetto, se ci sei, vieni avanti. Attenzione sul 10. Tutti spariti, Mario, allora bisogna vedere in che tana si è rintanato il falchetto. Il falchetto, mi sa che è mio, sta caricando o si stava impagnando il becco. E nora buona, e quanto è lunga questa bagnatura di becco? Guarda che ne ho anch'io acqua qui, mi. Cappa, ha detto che l'acqua mette la ruggine a mio figlio. Cappa, mannaggia, già ci vuole anche quella. Bravo, ti passa Antonello, così c'è anche un poco con lui, che io ne approfitto a cambiare l'acqua alle olive. Cappa. Caricando, dai un colpo di portante. Nada de nada. Ciao Giuseppe. Ciao Antonì, com'è? Se va. Mezzugai Antonì. Bisogna sempre andare avanti, piano piano vedo sempre andando, cappa. Ci si fanno per tutto. Cappa, e poi già ti capisco io a te, devi andare e poi ti devi sopportare anche Mario, mannaggia. Speriamo non mi stia sentendo. Una croce è quello, una croce. K, tutta la mia solidarietà c'hai, mi Antonè. Si sono portato. Mamma mia, casa, se entro in mano a Mario, guai mi, ha una polpetta mi fa. Ma faccetta c'è, anche faccetta. Ma ho provato a chiamarlo, Antonè, però lo so, o ha cambiato canale, oppure o sta caricando, boh. Falchetto, avanti. Antonio. Mi pare che quello ha preso le brasiliane. Oi, Giuseppe! Eccolo! Giuseppe, Giuseppe! E tanto, Giuseppe! Vai che sto, va la schinzola! Tutta sua via e mi vuoi già vendere! Tutta la via, io sono a te prende! È brasiliana, è brasiliana, no! Ma che? Yeah. Oh, ok, Brasil, Brasil, Brasil, tara, tara, tata, oh. Oh, come va il brasiliano, come so piccola papà. Va, va a cuccia, va a cuccia, parola, copiare, va a cuccia. Va a tardo. Ciao, da tarima, senti. Mario, sente quello che stava parlando male di te. Sì, quando uno parla al culo, il culo non risponde. Su che andiamo, Falchetto? Ah, va, facciamo la tessiti. Sta arrivando la bomboletta qua, ma strano, eh. Giuseppe. Grazie, buon dottor Rum. Il tuo Twitter è come generoso oppure serio? No, no, non è serio. Non mi avete sta arrivando. E io? Prova. Hola, hola, hola, hola. Se si nove. Ma non è generoso allora? No, dottor Rum. Cosa, Mario? Io qui nella postazione di Antonello siamo sempre più piccoli. No, come è vero, tu sei 9,5, però va bene, non va per la radio. Mi dai il Santiago, non ho capito bene, Gianni. 9,20. K, 9,20 pulito. Prova. 1, 2, 3, 4, prova radio, di roba, prova, va, va. Che avete a picchi 9,25? K, va bene, dai, dai. No, io sono più piccolino allora, dai. Se ti arriva Mario 9,5. Cara, cara. Sì, Mario mi arriva a Mito, ma sono in direzione sua, eh? Ah, ecco, ecco. Perché? Cavolo, mi stai deludendo. Lui sta passando quasi qui sotto casa e tu sei tutta l'altra parte della città. Mario, e come ti arrivo nelle tue coordinate, Mario? Dammi un controllino, per favore. Tu, qui mi stai arrivando, non è difficile di cinque bomba. Positivo, positivo, positivo accento. Bene, bene, va, mi accontento di quello. E il buon Giuseppe come ti sta arrivando, Mario? Fai la ventiletta, così facciamo l'antenne. Questa qui la stazione, c'è un antennino di DM attaccata alla ringhiera. Ti ha chiesto il buon Giuseppe come ti arriva nella tua postazione. Ah, nella mia, casa mia, gli arriva bomboletta. Mi sembra che il 9:30 Giuseppe a casa mia. E io, e io? Io adesso tutti non me li ricordo i segnali. Comunque la casa mia dove c'ho l'antenna grande, quella è riserva a tutti. Chiari. Io per esempio da qui poc'anzi stavate salutando Natalino, però non lo sentivo a lui. Brava, brava. No Mario, io poco fa intendevo nella tua stazione, sottolineato la stazione di Antonello in questo momento. Oh, qui arrivi bene, però rispetto a casa mia il segnale qui è leggermente più basso perché qui c'è un antennino. Però la radio è una bomba, eh. E K di positivo, Mario, dai, dai, va bene così. Era giusto per saperlo perché sto uscendo con il 48. K, stai andando alla grande. Guarda, questo apparecchietto qui, Mario, ha ancora le vetrine originali. E ti dico che è un bijou. È un bijou, guarda, 4 watt per città, secondo me, basta e avanza. Poi quello che mi sta dando molta soddisfazione è questo microfono, il Proxel, con l'amplificato. Ed si sono sposati perfettamente questi due apparecchietti. Molte volte l'apparecchietto, Giuseppe, non vuol dire nulla, l'apparecchietto, se c'hai un microfono buono che ti si adice bene la modulazione, cioè la tua voce, esce la grande, perché io c'avevo un Argus e c'avevo il diavolo rosso e usciva la grande, col Galax l'avete messo tutti, con l'Esa Delta mi dicevano che le stavo rompendo i timpani, così che vedi bene che dipende dal microfono e dalla modulazione di quello che parla, perché Gianni Dopierù l'ha comprato, siccome c'aveva il Galaxy come il mio, e la sua modulazione non si abbinava col microfono, e così che non gli è piaciuto. Positivo, positivo Mario. Avanti lo più rum. Ehi. Dunque garantisci che il microfono non c'è niente, Mario, mi dà anche fastidio questa cosa. Sicuramente è lui che non ci è riuscito. Che non era riuscito anche a fare quello di Giuseppe una volta. niente, poi si è messo, non so pochi l'hanno fatto, prova a darlo a qualcuno che lo sa fare e vedrai che te lo mette a posto. No, l'ho chiesto a Pomponio, mi ha detto che veniva e invece non è venuto. Adesso appena che lo sento in radio gli chiedo a vedere come mai. Cioè non è che veniva gratis, lo pagava, eh. Ah, non è Pomponio che gliel'ha messo, è che non stava piazzato. Tanto meno se lo stava piazzando ma non c'è riuscito. Va, vabbè. E per forza non c'è riuscito, non l'avevo mai fatto quella cosa lì, come fa a riuscirci? Già viene difficile a me a volte piazzarli, e uno che non lo sa fare è normale che non ci riesce, se non sa come fa. Kappa. Allora adesso appena che ho risolto a Pomponi gli dico a vedere se scende o se non scende, se no lo dico a mio figlio, se piglia il tram, intanto parte da qui e arriva a casa di Antonello, gli porta sia il baracchino che il microfono e fa le connessioni giuste. Comunque il microfono ti assicuro che non c'è niente, è nuovissimo. Io come l'ho provato e mi hanno detto che la voce non mi si diceva, tu mi hai detto che uscivo forte e tutto quanto, te lo ricordi, però c'è qualcuno che ha detto che la voce mia non si adeguava col microfono. E allora l'ho messo da parte, l'ho conservato per bene in una scatola. Quando me l'ha chiesto l'ho dato, non trovo il microfono, non è stato né manipolato né nulla. Adesso se l'hanno rovinato loro, toccando lo so, però il microfono non aveva niente. Kappa, riprendo un attimino io vado a fare una carichetta, se no poi mi si fa troppo tardi la digestione è quella che è. E buon proseguo a tutti, ci sentiamo a più dopo. Kappa, Giuseppe, buona carica, buon tutto. D'accordo Giuseppe, buona carica, te quella e ce la risentiamo alla prossima. Riprendi il falsetto. È positivo, accento. Anch'io ne approfitto a fare una carichetta, vai. Ci ascoltiamo a più dopo se coincide. D'accordo, buona carica anche a te. E stai attento a pagare il medico, eh? Non c'è problema, l'importante è che non si sputano le ali. È per il positivo. Andiamo bene, dai, a dopo. Tu... Doppio Russi, sei arrivato a casa con la grigliolina? No, la sto ancora aspettando che scenda. Ecco, Kappa, allora ti faccio compagnia ancora un po' di minuti, dai. E poi anche io vado a caricare. Kappa di positivo. Kappa, buon carica anche a Falchetto. Scendiamo dopo. Kappa, già ne ho per lui. Grazie della buona carica. Ehi, avanti. Ehi, io dovevo fare qualcuno che si intendeva con il microfono. Ma dov'è tua figlia? Non per sapere il faccetto di noi più lungo. È una poca scuola di ballo, No, è a casa dell'amica che sta studiando. Stava finendo di studiare. Kappa, e come faceva là da quando era piccolo, che andava dagli amici o dalle amiche per studiare. E lui stava ad aiutarla perché è un po' indietro e quindi Manuela è brava e gli sta dando una mano là. Kappa, meglio così e poi meglio sempre che vadano d'accordo tra compagni di scuola. Avanti questa portantina. Mario, sto partendo, va. Buia. Ciao, Leila, buonasera, ben entrato. Buonasera. Buia. Finito il trabacco per oggi, Leila. Finito. Meglio così, d'accordo, eh? D'accordo. anche doppio nome che sta rientrando a casa, K. Ciao per Paolo, ben sentito, eh! Ciao doppio nome, buonasera! Gaba, gaba, mi sto... sto rientrando, sono andato a prendere Manuela, sto rientrando a casa a Mandigas. Perché a mangi stasera? Beh, mi tocca. Ah, lascia perdere, non fare. Ci ha mangiato, te ne freghi per questo. Cosa ci ha mangiato, ma cosa? Non me ne voglio fare altro che. No, oggi sciopero. Sciopero che l'ho detto. No, non è sciopero, l'hanno messa dieta. Hanno detto, noi mangiamo e tu ci guardi, vero? di passata. Se mi stavo bene, lì. Via. Oh. tutto riformattato. Come mai? Se lo scaldava, faceva, non so cosa ci fosse. Ma lo facevano prima, mandate un uomo. Sì, anche a mano di lui. No, scaldava, di adesso lo scaldava di più. Però cosa gli abbiamo fatto? Però l'hanno riformattato, l'hanno riformattato. Sì, sicuramente gli hanno cambiato il processore, ecco perché è riformattato. In effetti non è che è riformattato, gli hanno cambiato il processore, deve essere che è una... come si chiama? Beh, deve essere che non dava l'impulso di raffreddamento, il padre che fare tutto insieme, che va in accordo con il raffreddamento e tutto. Infatti adesso va bene, adesso tutto a posto. Quindi ti hanno perso tutti i file? No, l'avevamo già... avevamo fatto il dischetto prima di mandare. Che non ho caricato un cavolo perché sono entrato subito, capito? A vedere un po' cosa c'era di questa roba. E vabbè, già te lo dico poi verticale. Santo lo so, lo già. Santo lo vedere lì sopra il santo. Magari perché siete un po' vicini. Sono su Facebook. Facile. Sta vicenda c'è di Facebook che ti cagano le risate. Ha fatto un'altalena, no? E lui la chiama la gondola. Invece che il gondolo, la gondola. Tirassi, roba a durarsi, riato a terra con un rampino, si tira secondo lei. Grazie, proprio non me lo sarei mai aspettato da lui. Sì, hanno inventato poche ricordi. E fa pure, ho usato lo solo ancora tu. Questo di due passaggi, no, ma ha fatto un passaggio un pochettino strano, adesso sta andando bene. Era arrivata la bufola di là, arrivate le fotografie, la gondola, il dondolo, ha fatto le fotografie, l'hanno messo su Facebook, ragazzi. Cos'era passato, che non si sia. Mettila in bocca, lo mette Vincenzo, ma non riporta. No, nome e cognome. Massaggi, cazzo, l'ho fatto di me fotografia, là, me l'hanno invato a me. L'hai invato me? Sì, intanto le 21, anche ti ha fatto i barbecue per arrostire, con i cosi della lavatrice, con gli oblò, e ne ha fatti i carrelli sotto per trasportare, ma c'è tanto sono bene, ne ha fatto due per arrostire e uno per arrostire le castagne, con i buchetti, ti ho fatto bene. E poco, con i cestelli? Con i cestelli della lavatrice. Lei ci sono dentro l'oblò, da un parto, per abbellire la bellezza. Una volta avevo detto, ma ascolta, avevo fatto tutto il recinto del giardino, tutto fatto, sai, con i tronchi dell'albero, c'era presenti come si fa. E te perché ne fatti così? Lui è per abbellire la bellezza. Per abbellire la bellezza. Non sei contro per papà, che mi sono chiamato. Ma spaventati, dice che stava affogando il gatto. Stava affogando il gatto? Ma stava vomitando. basta, non è che sta affogando, fa così, fa quando vuoi. Qualche cosa sullo stomaco ci avrebbe vomitata. E questo lo fa, quello c'è tutto il pelo. Ma già lo so, ma quello lì era proprio roba che aveva mangiato, non ce n'era pelo. Che fa? Gli mettono la medicina. E ti? Che gli mettiamo la medicina. Bene. Anche lui il pelo tutto quanto compresso, sembra quasi uno stronzetto. No, questa gli mette la medicina per non fare quello sforzo e lo fa cacciare senza, se lo sa di un'ora cerca la fase, invece di così me lo toglie senza fare sforzi e lo fa cacciare. Ma tutti a volte grida pure, fa se lo leccano, siccome hanno la lingua raffica, se lo ingoiano. E poi quando passano le pulizie, le chiedi, mamma mia. Però è l'animale più pulito che esista. Adesso l'avevo eliminato un altro po' di doni che aveva. Adesso sta iniziando un pochettino a stare meglio, però che devo sedarla purtroppo, dopo è sedata, perché se vede la macchinetta cazzo impazzisce, e vuole sedata, è molto usata perché il veterinario, la posso al veterinario perché non è possibile farla da altri. E per qua, ma è che lei non sta buona, ti sta ferma. Con le forbici glielo faccio, capito? Lì tiro dove c'è il nodo e poi con la forbice della passa avanti e indietro, così come quando stai coccolando, no, ce ne presenti. Ma lì non sta fermo, non ci si riesce. Tipo sviluppino, così faccio. Si formavano nella cuscia e prendevo io la tengo ferma poi con la forbice senza farla soffrire tiri dove c'è il nodo e poi con la forbice gliela passo tipo sul filo si da tagliare il pelo e l'ho fatto scalato, capito? Di modo che non si vede. Ma questa già è piena sotto la pancia, è piena. È stata un po' così, è stata troppo abbandonata e vedo la sola. E guarda che questa volta c'è la piega anche lunga di 20 centimetri. Comunque l'unica cosa che ti consiglio è fare il bagno con lo shampoo e poi mettere il balsamo. Il balsamo li rifà tutti, il pelo glielo fa morbido morbido, non li fa lavare il pelo. Yeah. qua da solo. Una scemo, ecco, tanto lo sai che non ci andiamo, lo superano, ma intanto me lo deve fare, cazzo, ma se ne vuoi più scemo, Sei quando mi ha attaccato, lo sa cosa fa. Intanto lo sai che il fuoco base, ci spostiamo e non hai più niente che fare, che cosa ci provi, cazzo, ma io non lo so, cazzo, ma vuoi che se ne andiamo a giocare, te l'ha detto. E anche perché stavo scendendo con un vattene, credo. Nessuno.